24 mattino. È vero che i nuovi positivi, il numero complessivo si è ridotto, ma ieri ci sono stati, rispetto al giorno prima, 10.000 tamponi di meno, e in genere cioè, il rapporto tra numero di tamponi e positivo da 5,7 è salito a 6, se ne trovano di più. Si fa presto a criticare il governo, però dovete pensare che i politici non sono medici virologi e si affidano a questi ultimi. Se questi ultimi hanno idee discordanti, voi capite che diventa difficile per un governo decidere certe cose così importanti. Buongiorno, scusate, ma gli anziani sono gli unici che non sono mai stati a casa. Se guardate in giro, gli unici che vanno in giro senza mascherina sono proprio gli anziani, quindi non cambierebbe nulla. Ma non so su quest'ultimo punto, in tutta sincerità, insomma, se... Allora, un po' questa cosa l'abbiamo vista tutti, soprattutto all'inizio. O forse semplicemente ci facciamo un po' più caso, quando vediamo gli anziani in giro, diciamo, ma come, proprio tu che dovresti rimanere a casa? E quindi la nostra attenzione si concentra un po' di più su di loro. Può darsi che sia anche questo. La questione dei tamponi. Allora, il grande tema è la relazione tra il numero di tamponi e il numero di positivi riscontrati. Come abbiamo detto in più di un'occasione, è questo uno degli snodi dell'inaffidabilità di questi dati. Perché, per esempio, non sappiamo, o almeno sappiamo che in alcune regioni avviene così, tra questi tamponi sono considerati coloro che hanno già avuto Covid e quindi sono poi al terzo tampone di verifica, e quindi non sappiamo se in questo numero sono compresi i tre tamponi alla stessa persona, probabilmente sì, o solamente il primo tampone che indica la positività. E ancora, quando la corrispondenza tra il numero di tamponi fatti e il numero di tamponi dei quali hai il risultato in quello stesso giorno, come capite, non è semplicissimo, il tutto distribuito su, appunto, una serie di laboratori regionali. In alcuni casi sono attivi i laboratori privati, in altri non sono attivi, quindi la velocità con la quale vengono processati questi dati in alcuni casi è di più, in altri casi è di meno. Non so veramente come prenderli questi dati che vengono dati ogni giorno alla Protezione Civile. È per questo che poi ogni giorno, quando apriamo la trasmissione alle 6.30, vi cito il dato invece sul calo dei ricoveri in terapia intensiva. E quello è un dato oggettivo, perché il tema del contenimento è legato soprattutto alla tenuta del sistema sanitario, no? E quindi, se calano le terapie intensive, se calano i ricoveri in terapia intensiva, è quello il segnale al quale guardare. Il tema della responsabilità della politica, guardate che questo è enorme, ed è il vero tema centrale di queste ore, nel momento nel quale riflettiamo sulla fase 2. E sì, è vero che medici, virologi spesso su alcune cose sono stati divisi. Noi stessi abbiamo raccontato e abbiamo detto che sulle mascherine a un certo punto non si è capito niente, bisogna metterle, non bisogna metterle, adesso sono fondamentali i dispositivi di protezione. È chiaro che siamo in una terra incognita, insomma, questo virus ci pone di fronte a tutta una serie di sfide che non conosciamo. Pensate solamente al tema dei 14 giorni, no, di quarantena dopo la positività, insomma, o se sei entrato in contatto con qualcuno positivo. E no, ieri abbiamo parlato con il primario di pneumologia del Sant'Orcio di Bologna, se volete riascoltarvi il podcast di ieri alle 6.30, il quale ci ha detto: insomma, io ero positivo, sono 25 giorni che continuo a fare tamponi dopo aver fatto, dopo il virus, dopo che è passata la fase acuta, e ancora risulto positivo. Quindi, boh. E però, la responsabilità che si deve prendere la politica è quella di prendere delle decisioni, non solo il governo, parlo anche delle regioni, E qua si innestano delle differenze tra regione e regione che poi andranno valutate, cioè anche le responsabilità su questo andranno valutate, insomma, no? Alcune regioni hanno fatto delle scelte molto forti, molto indirizzate, penso al Veneto, tanto per fare un esempio. Quello di Zaia, abbiamo detto, poteva essere un azzardo, la scelta, come dire, di gestione fatta da Luca Zaia e dal Veneto poteva essere un azzardo. Non lo è stato, era basato comunque su delle scelte mediche, però ha scelto una linea data da alcuni virologi e da alcuni infettivologi. Una linea specifica, che era diversa tra l'altro dalle indicazioni che arrivavano dal livello nazionale e dall'OMS, ed è stata per il momento la scelta vincente. E però è stata una scelta nel quale la politica si è presa le sue responsabilità. E va detto, non è che... Il tema è proprio questo, prendersi le proprie responsabilità. È la seconda parte di 24 Mattino, è martedì 21 aprile, sono le 7:24 minuti ed è la parte dedicata alla rassegna stampa. Con i giornali che, le cui aperture sono varie, alcune sulla fase 2, altre ancora sul... calo appunto del numero di positivi che si è registrato ieri, degli attualmente positivi, meno malati la prima volta, il titolo del Corriere della Sera, il quotidiano nazionale contagiati in calo è la prima volta, c'è anche un titolo a centropagina con la foto di quattro ragazze che giocano in mezzo all'acqua, in mare. E il titolo è bandiera blu, perché il virus non resiste in mare, dice l'Istituto Superiore di Sanità. Potremmo fare il bagno e stare in spiaggia. Prima luce nel tunnel è il titolo invece di Avvenire. Il Messaggero, uffici e fabbriche, le nuove misure, ci si concentra un po' più su questo. La Stampa sceglie invece il petrolio come foto di apertura, petrolio invenduto, la quotazione crolla sotto zero. E a centropagina un titolo più politico, le regioni con i due fronti antigoverno, da una parte il piano di avvio della fase 2, dall'altra lo spostamento in autunno delle elezioni amministrative. L'Italia che guarisce è il titolo della Repubblica, che tra l'altro intervista il famoso paziente 1, Mattia Maestri di Codogno. Credevo di essere morto, mi ha salvato mia figlia, dice. Mancano i morti di due RSA su tre, scrive il Fatto Quotidiano, che parla della Lombardia, solo 266 su 677 hanno risposto all'Istituto Superiore di Sanità, quindi i dati potrebbero essere peggiori. Il Manifesto, non è male il titolo del Manifesto, come spesso avviene, fase come vi pare, perché il riferimento in realtà è alle aziende, ma insomma potremmo un po' a queste deroghe concesse dai prefetti o al silenzio assenso per la riapertura dell'attività, però potremmo estenderlo anche a quello che sta succedendo tra regioni e governo. Governo in stato confusionale è il titolo di Libero. Nel delirio della fase 2 brillano solo le manette, la verità. Il Giornale, fanno solo casino mentre calano i contagi. Il Sole 24 Ore ha una notizia che riguarda la maturità, è obiettivo maturità in classe a giugno. L'ordinanza della ministra Azzolina è attesa nelle prossime settimane, ma la rotta è segnata, ci fa sapere Eugenio Bruno. Per la maturità si prevede un esame ipersemplificato da svolgere in presenza in classe, non online, possibilmente a partire dal 17 giugno. Una questione che riguarda centinaia di migliaia di famiglie. Il Sole 24 Ore dedica spazio naturalmente anche al petrolio. A New York il futures sul WTI precipita sotto zero a meno 37,63 dollari, anche a questo ci arriveremo. E ovviamente la Gazzetta dello Sport si dedica al campionato, alla riapertura. Il titolo è Serie Alt e il titolo non è male, anche qua il titolo è sul ministro Spadafora, che dice allenamenti e ripartenza in dubbio, temi sanitari, giuridici e regolamentari, molti club chiedono sicurezza e garanzie. Iniziamo da qualcosa un po' di laterale, da queste iniziative curiose che a livello locale partono, no? All'interno del in questo paese, no? Nel nostro paese sta vivendo questa fase di difficoltà. Oh, vi ricordo sempre 349-238-6666 i vostri SMS, messaggi su WhatsApp, anche audio se ce li volete mandare. Siamo in diretta sempre su Facebook, naturalmente la pagina è quella di 24 Mattino. Iniziamo da Cortina. A Cortina d'Ampezzo ci porta Libero a pagina 8, guardate, non è male, l'hotel della Posta di Cortina d'Ampezzo ha citato per danni il Ministero della Sanità cinese, una lotta insomma contro un colosso, reo di aver diffuso in ritardo all'OMS la notizia della diffusione del coronavirus. È ancora prematuro in questa fase iniziale pensare a una quantificazione del risarcimento, perché il valore della presente controversia è di valore indeterminabile, oltre la somma di euro 520.000 ai fini dell'iscrizione a ruolo, anticipa l'avvocato Marco Vignola, che per conto della società proprietaria dell'albergo ha presentato davanti al Tribunale di Belluno la citazione del Ministero della Sanità della Repubblica Popolare Cinese. Si tratta, dice il legale, di accertare il danno diretto subito dall'hotel De Poste, in primis nella chiusura anticipata dell'hotel e di tutti i servizi. E poi il tutto esaurito per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino fissate dal 18 al 22 marzo. Una chiusura anticipata ed improvvisa. Il tema è: se le notizie dalla Cina fossero arrivate per tempo, il governo italiano avrebbe potuto decidere per tempo, appunto, le misure di protezione. E chissà se questo è vero. Detto ciò, arriva la citazione al Ministero della Sanità cinese. E possiamo ritornare, se volete, insomma, perché c'è qualche dettaglio in più sulla vicenda che citavamo ieri. Il sindaco di Crespina Lorenzana nel Pisano, quello che aveva messo le multe per la spesa, aveva obbligato alla spesa minima, insomma, per evitare che la gente andasse troppo spesso al supermercato e troppo spesso a fare la spesa, una spesa minima. 5 euro per chi va al panificio, 20 euro per l'acquisto di generi alimentari nei negozi del vicinato e soglia di 50 euro nei supermercati. Dal tabaccaio non meno di 3 pacchetti di sigarette. La violazione comporta la sanzione per il negoziante e il cliente. Apriti cielo, è successo un casino. Confesercenti ha protestato perché poi hanno temuto l'onda, no, di altri sindaci che operassero scelte di questo genere. Morale, l'ordinanza alla fine è stata ritirata, però il sindaco dice, insomma, sono sicuro di centrare lo stesso l'obiettivo, perché ho invitato alla riflessione i tanti che vanno nei negozi anche più volte al giorno. Queste due piccole storie locali, mentre invece c'è una questione nazionale che viene molto scarsamente affrontata, devo dire, e che prendiamo da Avvenire a pagina 11, perché molto parliamo di scuola, molto parliamo di riapertura delle scuole, ma molto ne parliamo e ce lo fa notare Viviana D'Aloisio a pagina appunto 11 di Avvenire. E si è parlato, il dibattito ha riguardato per lo più gli esami, i programmi, i tablet, le classi, non i minori, cioè le persone al centro della scuola, coi loro bisogni, le loro domande, le loro ansie. Gli ultimi ad alzare la voce, tra l'altro, sono stati quelli di Save the Children. È necessario e urgente, dice la direttrice dei programmi dell'organizzazione, Raffaella Milano, un piano organico che comprenda sia la scuola che le attività territoriali. E i racconti che fa Viviana D'Aloisio testimoniano un po' questa difficoltà delle famiglie con figli anche piccoli che magari si ritrovano in casa e insomma i bambini piccoli in casa così tanto a lungo sono difficili da gestire, non solo, ma hanno anche le loro necessità e hanno molte loro necessità. Inascoltati gli allarmi dei pedagogisti è un esempio che racconta un po' tutto. Federica, inizia così il pezzo, non vuole più scendere con sua madre in cortile a giocare con le bambole sull'erba. L'ultima volta, il quartiere residenziale nel cuore di Milano, dai balconi la gente si è affacciata urlando: via i bambini, ci portate il virus, basta, siete giù tutti i pomeriggi. La madre ha risposto a tono, ma Federica è scoppiata a piangere. Cosa faccio di male, mamma? Dall'altra parte della città, la periferia di Quinto Romano, Marco invece scende senza le proteste dei vicini, ma il pallone resta all'angolo. Lui si siede sul muretto e da qualche giorno ripete: papà, la gente può uscire per andare a fare la spesa e lavorare e io non posso tornare a scuola o giocare con i miei amici. Questo non è giusto e le spiegazioni del padre servono, ma servono. fino a un certo punto. Una pausa. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Mattino. Avete un'idea di quanti dei 5.000 medici giovani abilitati un mese fa hanno accettato gli incarichi per andare a curare i malati di Covid? Molti sono, diciamo, disertori e stanno a casa a studiare e passeranno davanti agli altri che adesso lavorano 12 ore al giorno quando dovranno fare l'esame di ammissione in specialità. Questa è l'Italia. Secondo me per ora dobbiamo rimanere ancora a casa, in modo saggio, lontano dai pericoli. Chi vuole uscire esca, prenda la sua decisione, vada fuori, si ammali, anche quella è una propria responsabilità. Lavoro in un'azienda farmaceutica che quindi può lavorare. Siamo stati controllati dalla polizia in modo tale da controllare che usassimo tutte le misure di distanziamento sociale, mascherine, gel e via dicendo. Quindi i controlli ci sono. Oh, e questo ci conforta. Sulla parte dei 5.000 specializzandi, quanti hanno accettato, quanti non hanno accettato, io sinceramente non so dirlo, cioè ricevo le sue informazioni, ci informeremo anche su quello, sicuramente. Sulla parte di rimanere a casa, cara signora, lei di massima ha ragione, cioè soprattutto mantenere il distanziamento sociale. Dall'altra parte, insomma, in qualche modo bisognerà ripartire, visto che il grande tema è che altri paesi lo stanno facendo. Oh, sulla questione, poi ha ragione l'ascoltatore, voglio essere chiaro ancora una volta sulla questione di Zaia, no? Anzi, l'ascoltatrice Daniela, che insomma mi dice: non abbiamo ancora dati sufficienti per poter dire che il Veneto ha vinto la battaglia o che la strategia di Zaia era quella giusta. Io mi limito appunto a quello che abbiamo adesso, tant'è vero che ho detto la linea del Veneto per il momento si è dimostrata una linea che per il momento è risultata vincente. Poi vedremo nel tempo, naturalmente, perché sono cose che si giudicheranno, come spesso abbiamo detto anche da questi microfoni, si giudicheranno alla fine. Comunque veniamo alla parte centrale della nostra rassegna stampa, che ha a che fare con tutta una serie di elementi. Allora, c'è la grande polemica tra il governo e le regioni, alcune regioni, in particolare partita proprio dal Veneto, sulla questione delle elezioni amministrative. Già lo accennavamo, ne trovate dettagli un po' su tutti i giornali e un pezzo di tutte queste tensioni politiche che attraversano il paese in queste ore, che sono correlate a questo, sono correlate anche al fatto che giovedì, come ricorderete, c'è il Consiglio europeo, quello che deve decidere sul MES e sui recovery fund, e all'ombra di tutto questo si stanno giocando una serie di cose, uno scontro all'interno del Movimento 5 Stelle con Di Battista che prova a tornare in scena e a inserirsi anche sul tema delle nomine. Nomine delle società di Stato arrivate peraltro nella notte, ieri a mezzanotte e mezzo, anche di questo trovate un po' di tracce sui giornali, e che hanno sostanzialmente confermato quella che è stata la linea, per così dire, Di Maio-Conte, ok? E quindi su questo fronte Di Battista ha perso una serie di conferme di amministratori delegati, da Profumo, passando per De Scalzi, arrivando a Starace. Le conferme ci sono state, e l'inserimento di una serie di altre persone alle presidenze, e quindi questo è il fronte più puramente politico, se volete. E poi c'è il fronte dell'analisi appunto delle responsabilità della gestione dell'emergenza e della successiva fase 2. C'è un pezzo di taglio basso sul Corriere della Sera a pagina 11 che devo dire mi ha colpito molto. Lo firma Monica Guerzoni. Il Corriere della Sera nella giornata di ieri aveva pubblicato pagina 2 e 3 ricostruendo le giornate dell'emergenza, le giornate nelle quali è scattato tutto, no? E aveva parlato un po' di carenze governative nell'indicare la strada della massima fermezza, della massima chiusura a fronte di un virus che era potenzialmente estremamente pericoloso. Finalmente emerge un dettaglio che non è secondario. Andrea Urbani, che è il direttore generale della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria all'interno del Ministero della Salute, insomma un alto dirigente del Ministero della Salute, ci fa sapere che in realtà c'era un piano che prevedeva, insomma, nel quale c'erano delle previsioni molto fosche e che è stato secretato per non mettere in allarme i cittadini. Lo apprendiamo adesso di taglio basso, Corriere della Sera, pagina 11, firmato da Monica Guerzoni, appunto. Dal Ministero della Salute è uscito a gennaio un piano nazionale di emergenza per contrastare il coronavirus. In quelle pagine sono scritti gli orientamenti programmatici che hanno ispirato le scelte del governo. Il documento contiene 3 scenari per l'Italia, uno dei quali troppo drammatico per essere divulgato senza scatenare il panico tra i cittadini. Per questo il piano è stato segretato. Se la più fosca delle previsioni non si è realizzata è perché il governo ha scelto, anche se gradualmente, di chiudere i battenti del paese e imporre il distanziamento sociale. E questa è la spiegazione che arriva dai tecnici del Ministero della Salute dopo l'inchiesta del Corriere, che ha ricostruito un mese di ritardi nella gestione dell'emergenza. Non c'è stato nessun vuoto decisionale. Qua Andrea Urbani, chiaramente è direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero, chiaro che difende le scelte governative, le scelte del Ministero. Già dal 20 gennaio avevamo pronto un piano segretato. Quel piano lo abbiamo seguito. La linea è stata non spaventare la popolazione e lavorare per contenere il contagio. Perché allora la Lombardia è stata aggredita dal virus con tanta violenza? Si può sempre fare meglio, ma siamo stati investiti da uno tsunami che ha colpito l'Italia come primo paese in Europa. E quindi qua, da parte, non dico governativa, ma da parte dello Stato centrale, insomma, tutte le accuse nei confronti della Lombardia vengono in parte ridimensionate. Attenzione, perché questo è un punto che potrebbe riemergere, anche perché vi voglio ricordare che il governo ha sempre detto che si è agito con la massima trasparenza. Vedremo un attimo che cosa, se avremo ulteriori dettagli su questo piano segretato per non scatenare il panico nella popolazione. Andiamo a pagina 5 della Stampa. A proposito di cose e di fronti interessanti, c'è questo di quello della famosa app, no? La famosa app per tracciare i contagi. Immuni si chiama. E qua andiamo su un retroscena di Fabio Martini, firmato da Fabio Martini proprio sulla Stampa, che ci racconta un dettaglio, insomma, non proprio secondaria, ossia che i dati, o meglio, mettiamola così, i finanziamenti a Bending Spoon, che è la società che ha, per così dire, ricevuto l'appalto dal ministero, è una società che vede partecipanti alcuni nomi altisonanti: i 3 figli di Silvio Berlusconi, Renzo Rosso, Paolo Marzotto, Giuliana Benetton, il finanziere Davide Serra, Mediobanca, ma anche il fondo Nuo Capital, che investe in Italia con capitali cinesi, ma non sappiamo esattamente con quale quota. E la preoccupazione che sta emergendo è che, tutto sommato, questi dati di quest'app, scelta con un metodo che alcuni, anche tecnici del settore, hanno giudicato un po' discutibile, sta spingendo il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti a intervenire. Perché, scrive Martini, oltre a essere finanziata anche dai cinesi, è sviluppata da ricercatori svizzeri, al punto che una parte dell'affare potrebbe ricadere sotto la vigilanza di un governo, quello cantonale, che non appartiene all'Unione Europea. Risultato davvero originale di tutte queste carambole: a gestire preziosi dati pubblici, quelli sulla salute di milioni di italiani e quelli sui loro spostamenti, potrebbe ritrovarsi una società privata. Ecco perché la vicenda, appunto, finirà domani all'attenzione del COPASIR, il Comitato per i Servizi. A portarcene sono stati Enrico Borghi, rappresentante del PD nel Comitato, ed Antonio Zennaro, capogruppo 5 Stelle, vicino al Presidente del Consiglio e assai meno, nota Martini, a Luigi Di Maio, chiederanno che siano interpellati i servizi per capire se la sicurezza nazionale sia in qualche modo a rischio. Prima di andare alla pausa per il traffico, vi voglio segnalare un ulteriore elemento e poi andiamo anche sul tema più economico, con una storia che ha a che fare con i documenti che bisogna avere per avere i fondi garantiti dallo Stato, perché c'è una bella ricostruzione di Dario Di Vico che ci racconta la storia di una piccola SRL, una piccola e media impresa. 19 documenti per avere i fondi garantiti dallo Stato, alla faccia dell'assenza di burocrazia. Vi voglio segnalare un pezzo prezioso veramente. Ieri era nei trending topic di Twitter, tanto se ne è parlato, il Luc Montagnier, il premio Nobel per la medicina, insomma quello dell'AIDS, lo sapete benissimo che da un po' di tempo, insomma, come sappiamo, sul quale si addensa qualche dubbio, tanto che altri 35 Nobel negli anni passati hanno chiesto gli fosse ritirato il premio, il quale ieri ha detto, insomma, in un'intervista qualche giorno fa, ha detto che questo virus, questo Covid-19, potrebbe essere stato creato in laboratorio, perché c'è la corrispondenza tra alcuni elementi del genoma, della sequenza del DNA e alcuni elementi dell'HIV. Ebbene, la vicenda viene demolita magistralmente dal professor Enrico Bucci di Filadelfia sul Foglio. Siamo a pagina 1 del Foglio, in prima pagina del Foglio, poi il pezzo prosegue a pagina 3, il quale spiega che sono in realtà dei brevissimi tratti del genoma del coronavirus, che questo condivide non solo con l'HIV, ma con centinaia di altre specie da ognuno dei regni del vivente. Traffico. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Mattino. Lavoro nel settore alimentare nelle chiese. Una mascherina ci deve durare una settimana, di quelle di carta, quelle chirurgiche così chiamate. Guanti col contagocce, mai visto un controllo, mai vista una persona che veniva a vedere come lavoravamo e non ci siamo mai fermati, mai fermati. E qua, insomma, se da una parte, no, l'ascoltatore che lavora nell'industria medica ci dice questo, dall'altra parte ci sono anche situazioni di questo genere, e su questo è auspicabile che i controlli ci siano e siano approfonditi, perché poi appunto le industrie alimentari, come sappiamo, sono rimaste aperte perché sono fondamentali su quel fronte, appunto non è una questione di deroghe, naturalmente. Allora, il fronte economico, beh, sicuramente la notizia di ieri è una di quelle cose che alla quale non avremmo mai pensato di poter assistere, sia che ci si occupi di economia, sia che non ci si occupi di economia. Il prezzo del petrolio che scende in negativo, meno 37 dollari. Occhio, ragazzi, non è che domani andate dal benzinaio, scordatevelo di andare dal benzinaio, di far benzina e di farvi dare i soldi da lui, perché così non avviene. In realtà ci sono dietro tutta una serie di questioni tecniche, di scadenze, perché il petrolio viene contrattato con dei future, che sono dei contratti derivati sul petrolio futuro, diciamo così. così, in questo caso sul petrolio di maggio. E ieri c'erano una serie di scadenze tecniche e in più c'è stato un grande fondo che si è mosso spostando i suoi investimenti dal petrolio di maggio al petrolio di giugno. Questo ha innescato una catena appunto sul mercato che ha portato al petrolio in negativo. Pagina 10 del Sole 24 Ore, perfette le spiegazioni di Sissi Bellomo in un lungo pezzo, e Davide Tabarelli che commenta sempre sul Sole 24 Ore su questo inalienabile dominio della finanza sull'economia reale che batte un altro colpo. E ancora di più imperdibile, se volete ricordarvi sempre il tema vero di questo paese, è il pezzo di Jacopo Giliberto che trovate di taglio basso, perché se credete che poi tutto questo movimento sul prezzo del petrolio porti a un calo così drastico in quello che pagate alla pompa, ammesso che possiate muovervi e siate appunto tra quelli che si possono muovere con l'auto, ci ricorda ancora come stanno le cose Jacopo Giliberto. Il greggio precipita ancora sui mercati internazionali, con listini che scendono verso quota zero, ma benzina e gasolio in Italia ribassano in modo svogliato. Ieri le principali compagnie hanno usato la limetta fine per dare una smerigliata leggera, qualche millesimo di euro, a prezzi che rispetto a venerdì sono scesi in modo impercettibile, attorno alla media di 1,42 euro al litro per la benzina e 1,31 per il gasolio. La beffa viene soprattutto dal peso imbarazzante del fisco. Ricordiamocelo ancora una volta. Dai. L'accisa sulla benzina è 72,8 centesimi al litro, quindi là non ci schiodiamo. Cui aggiungere 25,6 centesimi medi di IVA, variabile perché in percentuale sull'intero costo, accise comprese. Mentre sul gasolio l'accisa è a 61,7 centesimi, cui aggiungere circa 23,7 centesimi di IVA. Sul prezzo finale ovviamente ci sono tutti gli altri costi, infrastrutturali, gli investimenti, il costo finanziario, il personale, la gestione degli impianti dalla raffineria fino al distributore su strada. Il valore della materia prima ormai è marginale e il margine di riduzione, ci dice Jacopo Giliberto, si attesta intorno al 10%. I consumi comunque sono ovviamente in caduta, però insomma se i costi fissi sono questi, oggettivamente c'è poco da fare. Le aziende e questa, più che questa fase 2, la fase della liquidità, allora innanzitutto la fase 2 è la questione delle riaperture, del come ripartire, del quando ripartire. Qua ci sono una serie di nodi, naturalmente, a partire da quello delle protezioni. Ce ne parlava proprio poco fa l'ascoltatore. Bene, andiamo a pagina 8, sempre del Sole 24 Ore, con un pezzo di Marzio Bartoloni che ci porta sulle stime del Politecnico di Torino. Ne servirebbero, aziende al nodo mascherine, ne servono 40 milioni al giorno, 40 milioni al giorno, ve lo ripeto, 40 milioni al giorno, ne servirebbero 2 al giorno per gli oltre 20 milioni di lavoratori italiani per fare un cambio a metà giornata, in pratica oltre 40 milioni, è il fabbisogno di mascherine monouso di cui avrebbero bisogno tutte le aziende italiane per la fase 2, soprattutto quando le attività produttive torneranno a regime se il loro impiego, come sembra, diventerà obbligatorio. La stima circola anche tra i tecnici del governo e viene incrociato con la disponibilità di dispositivi che si potranno trovare sul mercato. Potrete immaginare, insomma, con tutti i problemi che abbiamo trovato a reperire mascherine in questo periodo, insomma, non ne parliamo nemmeno. Il numero corrisponde anche a un approfondito studio messo a punto dal Politecnico di Torino per la Regione Piemonte. Lo studio, imprese aperte, lavoratori protetti, inviato anche dal governatore piemontese Cirio alla task force di Colao, stima in, attenzione, il fabbisogno mensile per tutto il paese. 953 milioni di mascherine, cioè parliamo di 1 miliardo di mascherine al mese, sarebbero quelle necessarie, secondo questo studio del Politecnico di Milano, per tenere in sicurezza le aziende. Aziende in sicurezza, ma insomma, come se poi chiudono? E qua veniamo al nodo liquidità. Fatevi portare sul Corriere della Sera. In un bellissimo pezzo Dario Di Vico ci porta in questa terrificante gimcana delle aziende per ottenere appunto i finanziamenti. Ed è una questione burocratica di un'enormità, è esattamente quello che non si voleva fare. Allora, lo scambio di mail di cui siamo venuti in possesso relativo alla richiesta di un finanziamento di 15.000 euro da parte di una SRL, racconta Dario Di Vico sul Corriere della Sera. Mail indirizzata alla propria banca, una piccola azienda chiede questo finanziamento coperto dal fondo di garanzia, vuole un appuntamento anche veloce per presentare il tutto. La banca risponde indicando i documenti necessari per accendere il mutuo. In tutto abbiamo calcolato 12 adempimenti che a loro volta implicano almeno altre 7 documentazioni aggiuntive. Un labirinto di carte. Si comincia chiedendo la copia degli ultimi 2 bilanci completi di nota integrativa, verbale di approvazione, ricevuta di deposito e dettaglio delle voci crediti e debiti commerciali e diversi. Prima curva. Subito dopo si chiede il bilancio provvisorio al 31/12/2019 sotto forma di stato patrimoniale e conto economico. Nella riga successiva si obbliga l'azienda a produrre il DURF, il DURC e il DM10, il documento unico di regolarità contributiva, il DURF, il DM10 che è il modello compilato dal datore di lavoro per denunciare all'INPS le retribuzioni mensili. E poi la situazione aggiornata degli affidamenti in essere con altri istituti creditizi, piani di ammortamento. Insomma, il rischio è che questi soldi si fermino al modulo da consegnare alla banca. Il GR, ci ritroviamo subito dopo.